Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Passaggio in India, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Adriana Motti. In quel momento Aziz stava gridando: «Mr. Fielding! Mr. Fielding!» Stipato in una carrozza col Nawab Bahadur, Hamidullah, Mahmud Ali, i suoi bambini e fasci di fiori, non era contento. Voleva avere intorno a sé tutti quelli che amava. La vittoria non gli dava nessuna gioia. Aveva sofferto troppo. Dal momento dell'arresto si era sentito distrutto. Si era lasciato cadere come un animale ferito. Aveva disperato non per viltà, ma perché sapeva che la parola di una donna inglese avrebbe sempre avuto più peso della sua. «È destino», aveva detto. Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai divana sanam, tujhe dekha to ye jana sanam. Tutto ciò che esisteva in quell'ora terribile era affetto, e l'affetto fu tutto quello che lui sentì nei primi dolorosi momenti di libertà. «Perché Mr. Fielding non ci segue? Torniamo indietro!» Ma il corteo non poteva tornare indietro. Come un serpente in un tubo di scarico, avanzava lungo lo stretto bazar. «Avanti! Avanti!» gridava Mahmud Ali, di cui ogni parola era divenuta un urlo. «Abbasso l'intendente generale! Abbasso il sovrintendente di polizia!» «Mister Mahmud Ali, questo non è opportuno», implorò il Nawab Bahadur. Sapeva quanto fosse poco proficuo aggredire gli inglesi, che erano caduti nella loro stessa trappola, dove era meglio lasciarli stare. Inoltre, era un grande possidente e deplorava l'anarchia. «Mister Fielding, mi abbandonate di nuovo?» esclamò Aziz. «Tuttavia, una manifestazione ordinata è necessaria», disse Hamidullah. «Altrimenti penseranno ancora che abbiamo paura. Abbasso il chirurgo civile! Liberate Nureddin!» «Nureddin? Lo stanno torturando!» «Ma no, non voglio che mio nipote divenga un pretesto per attaccare l'ospedale», protestò il vecchio Nawab Bahadur. «Vi dico di sì. Kalendar se ne è vantato prima del processo. L'ho sentito dalle finestre. Ha detto: ho torturato quel negro!» «Oh mio Dio, l'ha chiamato negro? Davvero?» «Sulle ferite gli hanno messo il pepe invece dell'antisettico.» «Impossibile, Mr. Mahmud Ali. A quel ragazzo un po' di rigore non farà male. Ha bisogno di disciplina.» «Pepe, l'ha detto il chirurgo civile. Sperano di annientarci. A uno bisogna impedirglielo.» Il nuovo sopruso aizzò il furore della folla. Fino a quel momento essa non aveva avuto un obiettivo e le era mancata la provocazione. Quando raggiunsero l'ospedale e videro le arcate giallognole del Minto, si precipitarono urlando in quella direzione. Era quasi mezzogiorno. Terra e cielo erano pazzamente brutti. Lo spirito del male era tornato a imperversare. Solo il Nawab Bahadur gli si opponeva, ripetendosi che doveva trattarsi di una falsa notizia. Appena una settimana prima aveva visto il nipote in corsia. Ma anche lui fu trascinato verso il nuovo baratro. Liberarlo! Vendicarlo, maltrattando il maggiore Kalendar. E poi sarebbe stata la volta di tutto il centro amministrativo. Ma la catastrofe fu scongiurata, e fu grazie al dottor Pannalal. Il dottor Pannalal si era offerto di testimoniare per l'accusa nella speranza di ingraziarsi gli inglesi, ma anche perché odiava Aziz. Crollato il processo, lui venne a trovarsi in una posizione molto critica. Aveva visto l'imminenza del disastro prima di quasi tutti gli altri, e mentre Mr. Das stava ancora parlando, se l'era svignata dall'aula, fuggendo l'esplosione di collera che si preparava. Nell'ospedale sarebbe stato al sicuro, perché il maggiore Kalendar l'avrebbe protetto. Ma il maggiore non si era visto. E adesso le cose erano più brutte che mai, perché c'era una plebaglia che voleva il suo sangue a tutti i costi. I servienti erano in rivolta e non vollero aiutarlo a scavalcare il muro posteriore, o meglio, lo sollevarono e poi lo lasciarono ricadere con grande gioia dei malati. Angosciato, egli gridò: «L'uomo non può che morire una volta sola!» e sgambettò attraverso il giardino in direzione della folla, facendo salamelecchi con una mano e brandendo con l'altra un ombrello giallo chiaro. «Oh, perdonatemi!» piagnucolava nell'avvicinarsi all'andò vittorioso. «Oh, dottor Aziz, perdonate le perfide menzogne che ho dette!» Aziz tacque. Gli altri irrigidirono il collo e alzarono il mento in segno di disprezzo. «Mi sono spaventato! Mi sono ingannato!» proseguì quel contrito. «Mi sono ingannato da tutti i punti di vista e su tutto quello che riguarda il vostro carattere. Oh, perdonate questo povero vecchio che vi ha dato il latte quando eravate malato. Oh, Nawab Bahadur, con tutta la misericordia, è il mio povero piccolo dispensario che volete? Pigliatevele tutte, queste maledette bottiglie!» Agitato, ma attento, li vide sorridere del suo inglese mediocre e subito cominciò a fare il buffone. Gettò a terra l'ombrello, vi inciampò sopra e batté il naso. Sapeva quello che stava facendo, e lo sapevano anche gli altri. Non c'era niente di patetico e di eterno nella degradazione di un uomo simile. Di infime origini, il dottor Panna Lal non aveva niente da perdere e saggiamente decise di trattare gli altri indiani come re, perché questo li avrebbe resi di umore più benevolo. Quando scoprì che volevano Nureddin, obbedì al loro ordine saltabeccando come una capra e starnazzando come una gallina, l'ospedale fu salvo. E sino alla fine dei suoi giorni lui non riuscì a spiegarsi perché mai il suo operato di quella mattina non gli avesse fruttato una promozione. E quando la chiese, il suo argomento col maggiore Callendar fu: «Prontezza, signore! Prontezza proprio come la vostra!» Allorché Nureddin comparve, col viso tutto bendato, ci fu un urlo di sollievo, come se fosse caduta la Bastiglia. Era il momento cruciale della loro impresa, e il Nawab Bahadur riuscì a prendere in pugno la situazione. Abbracciando pubblicamente il giovanotto, attaccò un discorso sulla giustizia, il coraggio, la libertà e la prudenza, schierandoli sotto una serie di paragrafi che ebbero l'effetto di raffreddare la pressione della folla. Poi dichiarò che avrebbe rinunciato al titolo conferitogli dagli inglesi e si sarebbe ritirato a vita privata come semplice signor Zulfikar, motivo per cui si recava subito nella sua casa di campagna. Il landò fece dietro front, la folla lo seguì, la crisi era superata. Le grotte Marabar avevano messo a dura prova l'amministrazione locale, cambiarono molte vite e rovinarono molte carriere, ma non distrussero un continente. Non disorganizzarono nemmeno un distretto. «Stasera faremo festa», disse il vecchio. «Mister Hamidullah, vi incarico di portare i nostri amici Fielding e Amritrao e di appurare se per quest'ultimo occorreranno cibi speciali. Gli altri resteranno con me. Non partiremo per Dilkusha prima del fresco della sera, naturalmente. Non so come si sentano gli altri signori, quanto a me ho un leggero mal di capo. E rimpiango di non aver pensato di chiedere un'aspirina al nostro buon Pannalal, perché il caldo stava facendo valere i suoi diritti. Incapace di portare alla pazzia, istupidiva, e poco dopo la maggior parte dei combattenti di Chandrapur erano addormentati. Per un po' quelli del centro amministrativo rimasero allerta, nel timore di un attacco, ma poi entrarono anche loro nel mondo dei sogni, quel mondo in cui l'uomo trascorre un terzo della propria vita e che qualche pessimista giudica un preannuncio dell'eternità. Era vicina la sera quando Fielding e Miss Quested si incontrarono ed ebbero la prima delle loro numerose e strane conversazioni. Svegliandosi, lui aveva sperato che qualcuno fosse venuto a prenderla, ma l'istituto era ancora isolato dal resto dell'universo. — Adela gli domandò se poteva avere con lui una specie di colloquio, e visto che egli non rispondeva, disse: «Potete dare una spiegazione del mio strano contegno?» «No, nessuna», disse lui seccamente. «Ma perché? Perché mai fare un'accusa simile se dovevate ritirarla?» «È proprio così. Perché?» «Dovrei esservene grato, immagino, ma...» «No, non mi aspetto gratitudine. Pensavo soltanto che vi interessasse di ascoltare quello che ho da dire.» «Oh, beh», brontolò lui, sentendosi piuttosto puerile, «non credo che una discussione tra noi sia opportuna. Per dirla tutta, in questa orribile faccenda io sto dall'altra parte.» «Non vi interesserebbe sentire la mia?» «Non molto.» «Non vi parlerei in confidenza, naturalmente, quindi potete riferire tutte le mie dichiarazioni ai vostri amici, perché da tutta l'infelicità di oggi è venuta fuori una sola grande benedizione. Non ho più segreti. La mia Eco se n'è andata. E chiamo Eco quel ronzio che avevo nelle orecchie. Vedete, sono sempre stata poco bene dopo quella gita alle grotte. E forse già da prima non stavo bene.» Questa frase lo interessò molto. Era ciò che talvolta aveva sospettato lui stesso. «E che specie di malessere?» domandò. Lei si toccò la testa da un lato e poi la scosse. «È stato il mio primo pensiero», disse Fielding. «Il mio primo pensiero il giorno dell'arresto. Allucinazioni. Pensate che sia questo?» domandò lei con grande umiltà. «E che cosa mi avrebbe prodotto delle allucinazioni?» «Ai Marabar deve essere successa una di queste tre cose», disse lui, trascinato nel discorso contro ogni suo volere. «O Aziz è colpevole, ed è quello che pensano i vostri amici, o voi avete inventato tutta la storia per malvagità, ed è quello che pensano i miei amici, oppure avete avuto una allucinazione.» «Sono molto propenso», disse alzandosi e mettendosi a camminare avanti e indietro, «ora che mi dite che vi sentivate indisposta già prima della gita, è una prova importante. Credo che voi stessa abbiate strappato la cinghia del binocolo. Siete rimasta tutto il tempo sola in quella grotta.» «Sì, forse.» «Vi ricordate quando avete cominciato a sentirvi poco bene?» domandò Fielding. «Quando sono venuta al tè qui da voi, in quel padiglione. Già, una festicciola alquanto infelice. Aziz e il vecchio Godbole si sono ammalati tutti e due, dopo.» «Io non mi sono ammalata. È una cosa troppo vaga per spiegarla. È tutto confuso con la mia vita privata. Mi è piaciuto quel canto, ma proprio allora è cominciata una specie di tristezza che sul momento non sono riuscita a individuare. Ma no, niente di così concreto come la tristezza. Vivere a mezza pressione lo esprime meglio. Sì, mezza pressione. Ricordo che sono andata con Mr. Hislop per la partita di polo. Erano successe varie altre cose, non importa quali, ma mi avevano scombussolata. Ero certamente in quello stato quando ho visto le grotte. E voi insinuate... niente mi urta, o mi ferisce. Voi insinuate che là dentro ho avuto un'allucinazione, proprio il tipo di cosa... ma in forma più terribile che fa credere a certe donne d'aver avuto una proposta di matrimonio quando invece non è vero.» «La mettete in modo molto onesto, comunque», constatò Fielding. «Sono stata abituata a essere onesta. Il guaio è che non mi porta a niente.» Trovandola più simpatica, lui sorrise e disse: «Ci porterà in cielo.» «Davvero? Se il cielo esistesse.» «Non credete nel cielo, Mr. Fielding, se posso farvi questa domanda?» disse lei, guardandolo timidamente. «No. No, non ci credo, però credo che l'onestà ci porti lì.» «Torniamo alle allucinazioni», riprese Fielding. Stamattina vi osservavo molto attentamente mentre testimoniavate e se non sbaglio, l'allucinazione, quella che voi chiamate pressione, è una parola alquanto efficace, è scomparsa all'improvviso. Lei cercò di ricordare quello che aveva provato in tribunale, ma non ci riuscì. La visione spariva tutte le volte che voleva interpretarla. Gli avvenimenti mi si sono presentati come si sono susseguiti sul posto, disse. Ma non era stato affatto questo. Io credo, e naturalmente vi ascoltavo con attenzione, nella speranza che faceste un passo falso, io credo che il povero McBride vi abbia esorcizzata. Non appena vi ha rivolto una domanda precisa, voi avete dato una risposta precisa e siete crollata. Esorcizzata in questo senso? Esclamò Miss Quested. Credevo che voleste dire che avevo visto un fantasma. Ma non arrivo fino a questo punto. Persone per le quali ho un profondo rispetto credono nei fantasmi, disse lei un po' bruscamente. Mrs. Moore ci crede. Mrs. Moore? Mrs. Moore è una vecchia signora. Non è necessario che siate scortese verso di lei, credo, né verso suo figlio. Non intendevo essere sgarbato, volevo soltanto dire che è difficile, via via che ci si inoltra negli anni, resistere al sovrannaturale. Oh, me lo sono sentito venire addosso anch'io. Riesco ancora a tirare avanti facendone a meno, ma che tentazione, a 45 anni, fingere che i morti continuino a vivere. I propri morti, quelli degli altri, non contano. Perché i morti non continuano a vivere. Constatò lei. Temo di no. Anch'io. Ci fu un momento di silenzio, come ne seguono spesso al trionfo del razionalismo. Poi lui si scusò con un certo garbo di come si era comportato al circolo con Hislop. «Cosa dice di me il dottor Aziz?» domandò Adela dopo un'altra pausa. «Oh, lui... beh, lui... la disperazione lo rendeva incapace di connettere. Naturalmente è molto amareggiato», disse Fielding con un certo imbarazzo, perché le frasi dette da Aziz non erano semplicemente amare, erano insultanti. L'idea base era «Mi disonora che sia stato fatto il mio nome in rapporto con quell'arpia». L'essere accusato da una donna che non aveva nessuna bellezza fisica lo infuriava. Sessualmente, Aziz era uno snob. Questo aveva stupito e contrariato Fielding. La sensualità, fin tanto che era schietta, non gli ripugnava, ma questa sensualità derivata del tipo che classifica un amante tra le automobili se è bella e tra gli insetti se non lo è, era estranea ai suoi sentimenti e tutte le volte che veniva fuori egli avvertiva una barriera tra lui e Aziz. Era in una forma nuova l'antico, antichissimo tarlo che divora il cuore di ogni civiltà, lo snobismo. Il desiderio di possessi, aggiunte che danno lustro, e proprio per sfuggire a questo, più che alla lussuria della carne, i santi si rifugiano sull'Himalaya. Cambiare discorso, Fielding disse, ma lasciatemi concludere la mia analisi. Abbiamo convenuto che lui non è un furfante e voi nemmeno. E non siamo del tutto sicuri che sia stata un'allucinazione. C'è una quarta possibilità da prendere in considerazione. È stato qualcun altro? La guida? Sì, proprio così. La guida. Lo penso spesso. Disgraziatamente Azizia l'ha schiaffeggiato e quello si è impaurito ed è scomparso. È un vero peccato e noi non abbiamo potuto disporre dell'aiuto della polizia. Per loro la guida non aveva nessuna importanza. Forse è stata la guida, disse Adela tranquillamente. Tutto a un tratto aveva perso qualsiasi interesse per la faccenda. In quel momento arrivò Hamidullah, che non parve troppo contento di trovare Miss Quested e Mr. Fielding a quattro occhi. Come tutti a Chandrapore, nemmeno lui riusciva a spiegarsi la condotta di Miss Quested. Aveva intrasentito le loro ultime frasi. «Salve, mio caro Fielding», disse. «Finalmente vi ho scovato. Potete venire subito a Dilkusha?» «Subito?» «Spero di andarmene tra un momento, non voglio davvero ostacolarvi», disse Adela. «È rotta la linea e Miss Quested non può telefonare ai suoi amici», spiegò lui. «Sono state rotte molte cose, più di quante si potrà mai aggiustarne», disse l'altro. «Ma dovrebbe pure esserci un mezzo per riportare questa signora nei quartieri amministrativi. Le risorse della civiltà sono tante». Parlava senza guardare Miss Quested e ignorò il breve gesto della sua mano che si tese verso di lui. Fielding, pensando che l'incontro poteva anche essere amichevole, disse: «Miss Quested mi stava dando qualche spiegazione sul suo contegno di stamane». «Forse è tornata l'era dei miracoli. Si deve essere preparati a tutto, dicono i nostri filosofi». «Agli spettatori deve essere parso un miracolo», disse Adela, rivolgendosi nervosamente a lui. «Fatto sta che mi sono resa conto, prima che fosse troppo tardi, di aver commesso un errore. E ho avuto tanta presenza di spirito da dirlo. Tutta l'eccezionalità del mio contegno si riduce a questo». «Tutto si riduce a questo, infatti», ribatté lui, tremando di rabbia, ma dominandosi, perché temeva che lei potesse tendere un'altra trappola. «Detto tra noi, e parlando come un privato qualunque, ho ammirato la vostra condotta, e sono stato felice quando i nostri generosi studenti vi hanno inghirlandata». «Ma come Mr. Fielding, anch'io sono stupito». «In realtà stupore è una parola troppo fiacca. Vi vedo trascinare il mio migliore amico nel fango, rovinare la sua salute e distruggere le sue prospettive a un punto che non potete nemmeno concepire, dato che ignorate tutto della nostra società e della nostra religione, e poi, d'improvviso, sul banco dei testimoni ve ne saltate fuori. Oh no, Mr. McBride, in fondo non ne sono proprio sicura, tanto vale che lo lasciate andare». «Sono matto io? Continuo a domandarmelo. È un sogno? E in questo caso, quando è cominciato?» «E senza dubbio è un sogno che non è ancora finito, perché mi è parso di capire che con noi non avete ancora chiuso la partita, e adesso è la volta della povera vecchia guida che vi accompagnava in giro per le grotte». «Niente affatto, stavamo soltanto discutendo le varie possibilità», intervenne Fielding. «Ah, un passatempo interessante, ma alquanto lungo. Ci sono 170 milioni di indiani in questa notevole penisola, e naturalmente uno di loro è entrato nella grotta. Naturalmente il colpevole è un indiano, su questo non ci sono dubbi. E dal momento, mio caro Fielding, che queste possibilità vi prenderanno un certo tempo», e qui mise il braccio sulla spalla dell'inglese e lo fece dondolare gentilmente avanti e indietro, «non vi pare che fareste meglio a venire dal Nawab Bahadur? Anzi, dovrei dire dal signor Zufilkar, perché adesso vuole che lo chiamiamo con questo nome». Ben lieto, tra un minuto», rispose Fielding. «Bene, ho deciso quello che devo fare», disse Miss Quested. «Andrò alla locanda». «Non dai Tartan?» disse Hamidullah stralunando gli occhi. Credevo che foste loro ospite. La locanda di Chandrapur era al di sotto del livello medio e certamente priva di servi. Fielding, pur continuando a dondolare con Hamidullah, pensava per conto proprio e dopo un istante disse: «Ho un'idea migliore, Miss Quested. Dovete fermarvi qui, all'istituto. E voi potete avere tutto l'edificio per voi e fare con comodo i vostri programmi». Sandro Lombardi ha letto Passaggio in India di Edward Morgan Forster. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.